Il gastronauta di Davide Paolini. Buona giornata a tutti cari radioascoltatori. Ebbene, mentre a Milano imperversa la parola design, in ogni angolo si parla di design, anche noi oggi abbiamo voluto affrontare questo argomento portato ovviamente al cibo. E c'è un fenomeno che sta imperversando, è il fenomeno del cake design. Bene, arriva sicuramente da fuori, arriva dagli Stati Uniti, dalla Gran Bretagna, però ormai è molto consistente anche qui da noi. Poi parleremo anche di un'altra cosa, di un fenomeno che negli anni scorsi era stato abbastanza, per così dire, gettonato, il food design, e anche di questo vorremmo scoprire cos'è di fatto e cosa è rimasto, diciamo, di questo fenomeno di cui tanto si parlava. Ma cominciamo a parlare delle torte, cominciamo a parlare di queste torte decorate, queste torte bellissime da vedersi. Ma un interrogativo che lancio, cari radioascoltatori, lo lancio anche voi, intervenite al numero verde 800 24 00 24, 349 238 6666, per quanto riguarda gli SMS. Ma sono solo belle o anche sono buone? E ora cominciamo a parlarne, e sicuramente le persone con cui parleremo risponderanno che sì, che sono anche buone. Buongiorno a Letizia Grella, cake designer, autrice di un libro, La torta che vorrei. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, vediamo innanzitutto se lei ci spiega brevemente, spieghiamo ai nostri radioascoltatori, così per introdurre, cos'è il cake design? Allora, il cake design è praticamente l'arte di vestire le torte. Siamo gli stilisti delle torte, rendiamo bello ciò che è buono comunque. Ho capito, quindi lei è il Dolce Gabbana delle torte, insomma. Armani, di Square, nominiamoli tutti, perché ho fatto anche dei lavori per loro, per cui non vorrei crearmi, come si dice, insomma, par condicio. Ecco, ma ci sono delle correnti stilistiche all'interno di questo fenomeno del cake design? Direi proprio di sì. Il mio, per esempio, è uno stile molto minimale, molto pulito, molto dai colori pastello, dalle tinte appena appena accennate, quindi sì, Armani mi piace, Armani delle torte mi piace tanto. Senta, ma la cartella colori cambia ogni anno e anche il taglio, così come succede nella moda? Vero, la cartella colori cambia perché seguiamo molto le tendenze, per cui se un anno imperversa il lilla ci adeguiamo tutti con il lilla, insomma il nero l'altro anno l'ha fatta da padrona, il nero comunque sulle torte, quindi sì, cambia la cartella. Ecco, mi tolga una curiosità, lei è arrivata al cake design perché magari faceva qualche già lavoro artistico oppure così? Ma io sono arrivata al cake design, a parte ho avuto sempre un'ottima manualità sin da piccola, ho vissuto la mia adolescenza negli Stati Uniti, quindi ho frequentato le high school a New York, a Long Island precisamente, e lì ho per la prima volta ho visto queste cose, sono uscita pazza praticamente perché non le avevo mai viste, mi sono appassionata. Poi sono tornata in Italia e ho sfruttato la mia opportunità di tornare sempre negli Stati Uniti, perché avevo parte e ho ancora parte della mia famiglia lì, e per approfondire, per studiare, per insomma cercare di portare il meglio a casa di quello che veniva fatto lì. Bene, grazie Letizia Grella, la ringrazio. Bene, grazie, abbiamo a voi. Grazie, un radioascoltatore, Mario da Bologna. Buongiorno Mario. Buongiorno Paolini, complimenti, lei è sempre molto preciso e competente nelle sue cose. Io ho visto un po' moltissime puntate della serie da cui è nata questa mania della cake design, la famosa pasticceria Carlos di New York, è nata lì la cosa. Io credo che se in Italia esistesse una pasticceria come Carlos, chiuderebbe dopo 5 minuti, cioè i NAS arriverebbero immediatamente, la farebbero chiudere immediatamente. Là utilizzano materiali improponibili in Italia, fanno torte con pezzi di compensato, plastica, cavi elettrici, una roba allucinante. Da noi sarebbe improponibile quella cosa lì, per cui vorrei solo dare un suggerimento ai consumatori italiani. Noi abbiamo pasticceri in Italia che sono il fior fiore dell'arte mondiale della pasticceria. Sono disperati perché tutti vanno a chiedere cose allucinanti, allucinanti. Lasciate perdere. mangiate buonissime torte e dolci italiani che sono eccezionali e sono fatte come Dio comanda da anni e anni e anni. Bene, grazie Mario da Bologna, grazie del suo intervento, perché sicuramente così provocherà dei come posso dire, un contraddittorio, lo vediamo subito. Chiediamo a Sara Sena, che è vicepresidente Associazione Italiana Cake Designer. Buongiorno Sara. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ha sentito questo radioascoltatore? Sì, l'ho sentito. E vorrei delucidare questo piccolo dubbio, ecco, diciamola così, soprattutto che il cake design si abbina all'eccellenza con il dolce italiano, perché noi usiamo i dolci italiani per decorare queste torte, cioè noi non usiamo le basi americane per comporre, per decorare queste, far diventare bellissime, buone da mangiare con gli occhi i dolci americani, ma sì quelli italiani, con la classica crema pasticcera, con la frutta, con tutte le creme italiane. Ecco, mi tolgo una curiosità, vedo sul mio sito www.gastronauta che mi scrivono, ma il cioccolato plastico contiene chimica? No, cioccolato plastico è un cioccolato in sé, solo che con i componenti plastico che li rendi molto più malleabile, molto più modellabile, è come la giocare con Pongo. Ho capito. Il modello si fa tutto con cioccolato plastico. Quindi possiamo stare tranquilli, insomma, sui contenuti. Ma certo, guarda che la pasticceria italiana usa cioccolato plastico molto, molto spesso per fare i fiori, per fare i fiocchi, per fare da decori molto semplici anche. Ho capito. Quindi è usato da anni il cioccolato plastico. Ma vedo, io avevo lanciato prima, diciamo, questo interrogativo, ripeto, numero verde 800 24 00 24, messaggi sms 349 238 6666, e vedo delle risposte molto dure. Mi dicono: buongiorno a lei, le torte da muratore di Buddy su Real Time sono calce design, grazie a lei. Ecco, vedo delle reazioni dai nostri radioascoltatori sul sito e su gli sms molto molto dure, addirittura c'è anche qualche battutaccia, insomma, lasciamole perdere. E volevo chiederle, ma visto che è un'associazione italiana, vuol dire che i designer sono tanti ormai? Sì, sono abbastanza, ci sono, tra i nostri soci abbiamo il professionista, l'appassionato, la nonna che vuole imparare un po' di trucchetti, di tecnica, più che altro saper imparare a coprire una tortina e usare degli stampini normali per fare la tortina per il compleanno del suo nipotino. Cioè sono arrivati nelle fiere che abbiamo partecipato, sono arrivate le nonne che ci hanno fatto le domande, tipo: quando posso fare un corso con voi? Perché i miei nipotini hanno guardato la trasmissione di Sky e hanno chiesto: nonna, tu devi assolutamente imparare queste cose per farle a noi, ecco. Senta Sara, quindi ci può dare un numero degli associati? Sì. Quanti siete gli associati, più o meno? Effettivamente per ora abbiamo circa 100 soci effettivi, okay. Numero in costante crescita, perché bene, abbiamo una lista di attesa lunghissima, ecco. Poi piano pianino facciamo la missione di questi soci, specialmente per non... Grazie. Poi vedremo che esiste anche un festival addirittura. Sentiamo un radioascoltatore, Massimo da Latina. Buongiorno Massimo. Buongiorno a tutti. Io volevo intervenire semplicemente per ribadire che per il cake design vengono utilizzati degli additivi chimici, dei coloranti chimici, che non sono assolutamente commestibili. Questo ancora non è uscito, quindi mi sembrava doveroso dirlo. Senta Massimo, lei è un chimico? No, io ho un ristorante biologico, quindi okay. So di cosa parliamo. Massimo, un'altra cosa le volevo chiedere. Mi è arrivato un sms che mi dice: il cioccolato plastico si fa col glucosio liquido, è vero? Questo non lo so, lo ignoro. Noi non utilizziamo il cioccolato plastico. Bene. Già la parola plastica mi sturba. Bene, grazie a Massimo da Latina. Lo ripeto, numero verde 800 24 00 24, messaggi sms 349 238 6666. Bene, abbiamo con noi Davide Oldani è abbastanza noto per non essere presentato, quindi non lo presento. È uno chef ormai famosissimo ovunque, in tutta Italia. Italia, e a lui voglio chiedere, visto perché Davide Oldani, e parliamo di food design, perché Davide Oldani diciamo che ultimamente ha disegnato, progettato tutta una serie di, chiamiamoli così, utensili da tavola, oggetti da tavola molto interessanti, tra cui un cucchiaio forchetta, dei bicchieri molto particolari, un piatto molto particolare. E voglio chiedere a lui, Davide, ma tu ti sei messo a progettare queste cose perché il design, i designer, diciamo, di professione si occupano poco della tavola di cucina e di cucina in genere? Beh, ma la mia parte, io non amo essere chiamato designer, anche perché non lo faccio, io sono un semplicissimo cuoco. E la mia parte di design che va sulla tavola è stata fatta da me proprio perché, per semplificare quello che è la comodità dell'ospite a tavola. Questo coltello, cucchiaio, forchetta l'ho fatta pensando di alleviare il lavoro ai miei ragazzi, quindi nel servizio. Ho pensato di farla perché oramai la cucina è una cucina appena appena da punzecchiare, a parte lo spaghetto e la costata, premetto. È una cucina da punzecchiare con un centimetro di reggia, è una cucina da raccogliere, quindi si ha sempre bisogno del cucchiaio, è una cucina da appena appena da tranciare, perché la mia posata fa coltello, cucchiaio e forchetta. E tutto questo design che io ho fatto l'ho fatto all'insegna della praticità dei miei ragazzi, della praticità e della convivialità dei miei ospiti, e anche per una parte di ecosostenibilità, perché naturalmente i bicchieri sono leggermente più spessi e quindi se ne rompono meno. La posata, anziché lavarne tre, ne laviamo una, quindi addietro al discorso della qualità ci va anche la parte parte gestionale e la parte di qualità del prodotto. E quindi quello che io dico, il mio design è quello che coincide con il contenitore che valorizza il contenuto. Nel caso del piatto è il contenitore disegnato da me che valorizza quello che io faccio, cioè il cibo, e nel caso del bicchiere è il bicchiere che, essendo smussato, avendo delle peculiarità importanti, valorizza ancora di più il vino. Insomma, è un qualcosa che sicuramente mancava, che tu, facendo il cuoco, hai capito, diciamo, che bisognava andare anche in altre direzioni rispetto a molte posate che io vedo in giro, di designer che assolutamente sono veramente incredibili, non si riesce a mangiare, e delle volte mi arrabbio anche perché mi chiedo perché acquistare certi tipi di prodotto che poi non hanno una modalità d'uso, però esistono e ce n'hanno anche una grande quantità. Comunque, Davide, grazie di questa spiegazione, ti saluto e ti ringrazio, a presto. Grazie a te, ciao Davide, grazie. Sentiamo Alfredo da Arezzo, un radioascoltatore. Sì, io sono uno del settore perché è un'azienda alimentare e un ristorante. Molte volte si supera ogni limite, perché quei prodotti che molte volte vengono propagandati come novità, se li dovesse mettere in piedi e applicare un operatore, sarebbe veramente da galera, metterebbe in giro dei veleni. Dopo ci accorgiamo successivamente, generalmente questi qui vengono tirati fuori nei salotti snob, che però nella pratica praticamente sono impraticabili, insomma. Quindi viene dato un messaggio, mi scusi, seguo la sua trasmissione, a volte diciamo deviante e non corretto. Quello che ha detto qui prima quel signore, se la pasticceria avesse fatto, applicasse quello che applicano in questi centri, diciamo, dove la notizia viene data per prima, e non ci fosse, ripeto, un pubblico snob e una stampa snob, queste cose non farebbero notizia. Il vero operatore che si è fatto un mazzo tutta la vita per fare le cose veramente buone non fa notizia, questo è il punto. È la tecnica della notizia, purtroppo, questo. Purtroppo però va detta, certo. Perché un blé forte, un rosso, un nero non naturale, bene, andate a leggervi dietro quello che effettivamente c'è. Guardi, ora abbiamo un bravissimo pasticcere di Rimini, Roberto Rinaldini, che oltre ad essere un bravissimo pasticcere, quindi ha scritto un bellissimo libro sul cake a portè. Quindi sentiamo Roberto Rinaldini. Buongiorno Rinaldini. Buongiorno a tutti. Da lei voglio capire questo: lei è notoriamente un bravo pasticcere. Ora ha scritto questo libro sul cake design. Ci dice, sì, un pasticcere così di professione come lei, non quindi un appassionato come abbiamo sentito, come sono larga parte dei cake designer, perché ha sentito il bisogno di fare questo libro, di arrivare al cake design? Ma perché semplicemente mi piace stare al passo coi tempi. per seguire le richieste del cliente. Io sono al servizio dei miei clienti e voglio soddisfare nel miglior modo possibile, con la qualità più alta possibile. Quindi lei dice che c'è grande richiesta, diciamo, di torte decorate, insomma, mi sembra di capire. C'è una richiesta maggiore rispetto agli altri anni e c'è un'attenzione maggiore alla decorazione. Non è che c'è solo quella richiesta, c'è anche la richiesta della torta classica all'italiana, decorata con la panna o con la frutta. Però c'è anche questo tipo di richiesta di clienti che vogliono torte tematiche, ricoperte di pasta di zucchero, che però all'interno hanno una torta buonissima, come sono le torte all'italiana, perché io non cambio ingredienti per fare queste torte, diciamo, all'americana. Per quello che ho voluto dare un nome diverso da tutti. Il mio è un cake à porter, cioè una cosa, una torta che si può portare. Senta, e abbiamo sentito, ho visto, c'ho anche molti sms di molti dubbi sui questi colori che si trovano in queste torte. Abbiamo sentito, sì, anche per quanto riguarda il cioccolato plastico, vedo molti dubbi sul discorso della chimica o meno. Lei che è un professionista può rispondere a queste domande? Beh, il cioccolato plastico, intanto per chiarire, è non è altro che cioccolato con l'aggiunta di glucosio. È un cioccolato che è più elasticizzato di altri. Ovviamente viene definito cioccolato perché all'interno c'è della massa di cacao e dunque è inteso come cioccolato, però non ha niente a che fare col cioccolato. È una pasta che si usa prettamente per la decorazione e quando si va a mangiare ovviamente al palato risulta leggermente gommosa, però chi lo usa non è che usa una plastica, usa del cioccolato con del glucosio, che è uno zucchero che ci trova in tutte le caramelle gommose di questo mondo. Tornando, sì, ai coloranti, per chiarire un po' l'aspetto dei coloranti, ci sono coloranti che devono essere dichiarati che sono considerati e sono additivi alimentari e hanno bisogno davanti della E a seguito del numero che le rappresenta, o se no ci sono i coloranti naturali che io uso per le mie torte. Però i coloranti naturali, oltre a costare 5 volte tanto gli altri, colorano meno, diciamo, rispetto a coloranti considerati additivi, certo, perché sono più delicati, vengono apposta dalla natura e dunque vengono dagli spinaci, dalle frutte, dai vegetali, dunque possiamo capire che tengono con meno colore e nel tempo tendono a sbiadire più velocemente. Però io per scelta li uso nelle mie torte, però uso anche altri colori che sono gli additivi, che non sono vietati, però bisogna dichiararli in modo corretto come la legislazione ci chiede, cioè in tutte le confezioni, quando si vende al cliente un prodotto, vanno indicati gli additivi, cioè coloranti, con la dicitura sotto, che possono influire negativamente sull'attenzione e sulle attività dei bambini. Però ovviamente sono le quantità che incidono in questa, certo, cosa, e per legge noi siamo giustamente costretti a usarle, ma una costrizione che è giusta, perché noi siamo trasparenti e vogliamo per il nostro cliente finale la qualità migliore. Bene, rimanga con noi Rinaldini, numero verde 800 24 00 24. Sentiamo Nicoletta da Bari. Buongiorno Nicoletta. Buongiorno, io sono una mamma appassionata di cake designer e niente, mi sono affiancata a quest'arte, mi sono avvicinata a quest'arte perché desideravo realizzare una torta diversa dal solito, e sono d'accordo con il pasticcere che ha parlato poc'anzi, che ha detto appunto che bisogna stare al passo coi tempi e realizzare anche i desideri dei propri figli. Ecco perché il fatto di, diciamo, rendere materiali dei personaggi, dei fumetti o quant'altro è una cosa molto divertente che fa molto piacere. Se poi i pasticceri non sono in grado di stare al passo coi tempi con queste cose, purtroppo è un altro problema. Però essendo una mamma posso dichiarare tranquillamente che la pasta di zucchero viene fatta con glucosio, acqua, gelatina e zucchero a velo, quindi non ci vedo nulla di non commestibile. Per quanto riguarda i coloranti, bisogna, come in tutte le cose, sia pasticceria sia in altre cose alimentari, stare attenti alla qualità, esattamente come diceva il pasticcere poc'anzi. Ho capito, benissimo. Lei da quando fa, diciamo, queste torte? Io dal primo compleanno di mio figlio ho iniziato. Ma quindi lei le fa solamente in maniera casalinga oppure vende anche e fa anche per altri? No, assolutamente casalinga. Qualche volta mi è capitato qualche richiesta di qualche amica che lo stesso voleva una torta particolare, diversa dal solito, l'aiutava magari, diciamo, solamente per fare i soggetti, perché la cosa più difficile ovviamente è realizzare i soggetti fisicamente. Ho capito. Quindi, bene, grazie Nicoletta da Bari. Io ritorno a Rinaldini per chiedere questo. Rinaldini, diciamo che questo fenomeno è arrivato dagli Stati Uniti, portato dalla televisione, ma si sta formando anche una scuola italiana? ma io penso che i pasticceri italiani devono adeguarsi alle richieste. Una scuola adesso non c'è proprio, ci sono tanti corsi che vengono fatti principalmente da ragazze molto brave, che ci tengo a dire hanno una manualità straordinaria nel fare soggetti e nel riprodurre su torte cose veramente straordinarie. Magari la mancanza, lo dico con molta umiltà, di certi pasticceri italiani è stato appunto rendersi conto che questo fenomeno li stava travolgendo, e molti adesso si trovano dalla parte di dire: ma cosa facciamo, appoggiamo le casalinghe che fanno queste torte? Io le appoggio, il problema che loro si devono rendere conto che noi pasticceri siamo sottoposti a controlli sanitari quotidiani, paghiamo giustamente le tasse come tutti, come dipendenti, e magari queste ragazze che fanno queste torte le fanno in casa e le vendono un po' in modo abusivo, non un po', in modo abusivo possiamo dire. Però ci sono anche tante altre ragazze che si sono messe in regola, hanno creato proprie attività, e io quelle assolutamente le stimo. Bene. Perché fanno le cose molto onestamente e buone. Grazie Roberto Rinaldini. Il suo libro Cake à Porter. C'è una SMS che dice: noi pasticceri italiani non abbiamo niente da imparare dalla grande mela. Ma ora, sentito un po' tutte queste cose, abbiamo con noi un grande pasticcere italiano, che è Iginio Massari, il quale di solito è molto chiaro, non appelli sulla lingua quando così interviene e risponde. Allora gli voglio chiedere: Iginio, ma cosa ne pensa di questo grande boom del cake designer, di queste trasmissioni televisive, insomma, di queste torte belle da vedersi? Lei cosa ne pensa? Sarebbe lunga il discorso. Prima di tutto si pretende di un dolce complesso qual è il cake design, senza calcolare quali sono le tradizioni americane, che nella festa lo appoggiano alle 9 del mattino e le mangiano verso le 9 e le 10 la sera, e per forza di cosa questa struttura, questo comportamento del dolce non potrà mai essere buono, perché ci devono essere prodotti che si conservano parecchie ore fuori dal frigo. Seconda cosa, ci sono delle strutture ovviamente all'interno, perché il dolce a forza zero, nel senso che una crema non è che possa sostenere un grande peso, una panna montata, e perciò non ha forza. Ciò che la tradizione italiana ha sviluppato per secoli e secoli, ci troviamo davanti una nazione che si chiama Stati Uniti, che viene a imporre attraverso la televisione, ovviamente, che è un mezzo dove la figura, l'immagine fa presa immediata sulla gente, come qualcosa di straordinario. In realtà di straordinario c'è ben poco, c'è la mancanza della tradizione, c'è la mancanza della bontà, c'è la mancanza della verità del dolce. Qua siamo veramente, vogliamo veramente bassi. Mi sbaglierò, ma ho la netta impressione che la pasticceria cosiddetta artistica faccia parlare di sé solo quando è accompagnata dal prezzo smisurato e dei suoi dolci mostra ben poco. Che si possono paragonare, io li paragono come una torta follia, come voglia di possesso esclusivo, e a volte mi sembra addirittura patologico questo stato di cose. Bene, rimanga con noi Iginio, sentiamo Giovanni da Venezia, un radioascoltatore. Da Vicenza, non da Venezia. È la stessa cosa comunque. Mi ricollego all'ultimo intervento straordinariamente efficace e lucido del professionista. Io non ho nulla a che fare con la gastronomia, non so nemmeno cucinare, ma mi collego a questo discorso. La mia sensazione è che questo rispecchi essenzialmente l'assoluto bisogno dell'appariscenza, a scapito della sostanza, della bontà. Quando io sento una mamma che dice: i miei bambini si divertono molto con quello che io ho costruito, vuol dire che noi dimentichiamo completamente che la torta è fatta, deve essere fatta per una riunione conviviale, per allegrare i bambini, per farli stare insieme, per farli mangiare cose buone. Io credo che dal punto di vista etico e esclusivamente sociologico, tutto quello che ha detto il professionista del dolce sia assolutamente condivisibile e sottoscrivibile, ed è esattamente il mio pensiero da non professionista, che cerca di fare nel mio piccolo un'analisi sociologica. Grazie Giovanni, ricordo il numero verde 800 24 00 24, ma abbiamo con noi in linea una cake designer, sentiamo anche lei di Como, Marina Ragazzi. Buongiorno Marina. Buongiorno. Tutto bello da vedersi, e poi il buono c'è? Quella è la grande sfida, a mio parere, ed è la sfida della quale io ho cercato di farmi carico. Io ho una passione da sempre della buona presentazione di tutto, non soltanto del cibo. Apprezzo molto, per esempio, il lavoro dei nostri amici giapponesi nella presentazione della tavola, delle vetrine, tutto quanto. E ho cercato anche, per quanto riguarda le torte e questo mondo delle torte all'americana, diciamo, che sono comunque incuriosiscono molto il consumatore italiano per l'aspetto sicuramente molto piacevole, che si integra anche nel concetto di quella che poi è tutta la festa. E la sfida che ho cercato di affrontare è proprio quella di coniugarla però al gusto italiano e alla qualità degli ingredienti e alla qualità del prodotto, anche perché ho trovato del sospetto anche nel consumatore, che dice sì, la torta bella da vedere, mi piace, ma c'è un po' questo pregiudizio che probabilmente viene sicuramente dall'America anche, dove poi in effetti devo dire il gusto di queste torte non è eccelso, perché usano moltissimo burro, queste creme al burro appunto che, come diceva il pasticcere, devono resistere a temperature e a tempi che non sono tipici dei nostri dolci, però di coniugarle con un gusto più nostro, perché altrimenti è una volta sola e poi mai più. Bene, grazie a Marina Ragazzi, designer, cake designer di Como. Sentiamo Bianca dalla provincia di Chieti, una radioascoltatrice. Buongiorno Bianca. Buongiorno Davide Paolini. Io intervengo perché vorrei approcciare il problema da un altro punto di vista. In verità, nella tradizione pasticcera italiana non manca un'attenzione alla forma, solo che rimandava, per fortuna dalle mie parti ancora rimanda, non a una decorazione fine a se stessa, pure semplice, ma a una simbologia. Ad esempio a Pasqua si fanno i cavalli per i bambini, le bambole per le bambine, che hanno una decorazione a volte davvero da trina, da merletto, meravigliose. Oppure, che ne so, forse lei conoscerà Guardia Grele, sempre in provincia, certo, di Chieti, ci sono le cosiddette sise di Monache, no? Questi dolci fatti con un pan di Spagna raffinatissimo, la crema, diciamo, dentro. Che sono le tette delle monache, insomma, traduciamo. Sì, le sise sarebbero le tette delle monache, e anche è bellissimo perché è anche ironico, no? Sono tre perché si favoleggiava che le monache avessero così una particolare fornitura, e anche per i matrimoni si preparano dolci che rimandano a una tradizione anche ironica, di scherzo a volte carnascialesco. Ad esempio sono dei dolci ripieni di marmellata d'uva, come delle mezzelune, che però vengono ripiegate come se, infatti si chiamano celli ripieni, ecco che c'è un'allusione in qualche modo anche sessuale. E mi sembra che perdere tutto questo mondo anche di ricchezza simbolica per sposare una montagna di roba, che poi, diciamocela francamente, queste torte così decorate alla fine dentro hanno sempre banalmente un pan di Spagna approssimativo, crema e cioccolata, insomma, banalissimo. Sotto il vestito niente, insomma, lei voleva dire questo. Grazie Bianca, perché abbiamo tante altre telefonate. Volevo ritornare a Iginio Massari un secondo. Iginio, ma la tradizione italiana però ha anche una tradizione di decorazione non così esagerata, non sulla costruzione, però c'è una tradizione anche su questo. C'è una tradizione ed è molto raffinata, tanto è vero che io e Biasetto, che è un noto pasticcere a livello mondiale, abbiamo fatto un libro 15 anni fa. Senz'altro è molto più difficile per i non professionisti interpretarlo. E sono dolci che sono studiati da cima a fondo, dove si sono autoportanti e dove la godibilità del dolce fa trasmettere delle emozioni, la bellezza dei messaggi da distribuire, e poi vengono accettate in qualsiasi angolo del mondo, anche se sono più difficili. Il primo che ha parlato parlava di strutture che lui fa inserendo del polistirolo. Ovviamente questa è un'involuzione del dolce, o forse anche un'evoluzione del dolce all'americana, perché gli italiani questo dolce lo vedono come la scatola dei cioccolatini, una grande scatola con pochi cioccolatini, perché vogliono fare bella figura. E mentre in realtà un dolce di nozze per 100 persone, il diametro base non va oltre i 35-40 centimetri per avere una torta alzata. E vogliono le torte gigantesche e non se ne rendono conto che una torta alta 1,20 m, 1,30 m e con un diametro da 70 è per 250-300 persone. Perciò questo concetto non entra nella testa della gente e vogliono delle torri di Babele senza pensare al costo finale. Continuiamo comunque a parlare di cake design e ora chiediamo a Federica Visconti, che è responsabile del Festival del Cake Design, come si svolge questo festival. Federica. Sì, buongiorno, buongiorno a tutti. Questo festival si svolgerà su due giornate, il 26 e 27 maggio allo Sheraton Hotel di Villano Malpensa. Sarà un appuntamento unico nel corso dell'anno, quindi sarà un evento veramente strepitoso dedicato a questo dolce mondo. Ci saranno corsi, ci saranno workshop, ci sarà tutta un'area dedicata agli espositori del settore. Ma ci sarà anche una gara tra vari cake designer? Esatto, ci saranno anche delle gare, ci saranno delle competition, che metteranno in gioco cake designer emergenti. Quindi cerchiamo nuovi talenti in questo mondo. Ok, rimanga con noi, sentiamo Fabrizio da Novara. Buongiorno Fabrizio. Dottor Paolini, buongiorno. Volevo dirle una cosa. A me questa roba del cake design non piace per niente. Poi volevo dire che noi abbiamo i migliori pasticceri e cuochi del mondo, come produttori di vini anche. Quindi noi vediamo la qualità. Anche un semplice tiramisù, i nostri pasticceri ne fanno un'opera d'arte. Non abbiamo bisogno che gli americani ci mettano porcherie sopra le torte, perché noi mangiamo bene. Bene, sa, abbiamo bisogna... i migliori professionisti del mondo. Però non ci si può chiudere, dobbiamo essere anche così aperti a quello che succede nel mondo. Poi uno fa le scelte, ovviamente, fa le scelte, però cioè, non chiudiamo, cioè, noi siamo i migliori e basta, ma vediamo anche cosa succede nel resto del mondo. Ma abbiamo la qualità. Certo, ma sicuramente. Ma guardi che anche altri paesi hanno la qualità, cioè non chiudiamoci su questo dogma, solo noi abbiamo le qualità. Bene, abbiamo con noi uno chef che di design se ne è occupato molto anche dal punto di vista dello studio e ha insegnato, insegna credo ancora all'università, ed è Davide Scabin. Buongiorno Davide. Buongiorno Davide, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Senti Davide, volevo chiedere a te questo, qualche anno fa food design, questa parola magica correva un po' ovunque, poi ora all'improvviso è così, è quasi sparita. Volevo chiederti, ma forse perché non c'era chiarezza, forse perché molti non avevano capito che non era solamente il disegno del piatto ma era qualcos'altro? Sì, diciamo che magari si è resi conto che non era così semplice come appariva, come poteva apparire dire design in cucina. Normalmente è stato sempre scambiato solo per la parte estetica, mentre proprio in questi mesi abbiamo in carta così un omaggio a Bruno Munari, l'esemplificazione del metodo progettuale che è stato il suo risotto verde, su cui ha costruito una teoria semplice per quello che è il metodo progettuale. Questo vuol dire veramente design in cucina. Certo, secondo te l'influenza del design diciamo, ha portato a un miglioramento anche dell'estetica, ha portato a un miglioramento anche della presentazione dei piatti? Assolutamente sì, da quando il design è entrato in modo così, non diciamo prepotente, ma preponderante nel mondo della cucina, specialmente anche nel lato home. Cioè abbiamo visto veramente che l'ambiente della cucina è esploso, è diventato il centro di accueil della casa, anche nel lato professionale comunque ha dato delle soluzioni, quindi anche i contenitori, quelli che possono essere i piatti, quelli che possono essere tutti gli strumenti che concorrono comunque a dare un'immagine migliore, direi che comunque ha contribuito parecchio. Un'ultima domanda un po' cattiva faccio, ma non nei tuoi confronti, perché il tuo locale è sicuramente uno tra i più belli che si siano in Italia. Milano è la capitale del design, in Italia abbiamo, cioè l'Italia ha, diciamo, questo alone di essere un po' il paese del design, uno dei più avanzati al mondo. Abbiamo dei locali bruttissimi in Italia nella ristorazione, mi chiedo perché. Ma forse perché il concetto di design, o comunque di connessione con l'architettura, normalmente a volte anche nei locali che sono, diciamo, l'ultima moda, sono l'espressione, a volte il delirio di qualche, lasciato tutto in mano a qualche architetto, a qualche designer, non viene presa in considerazione poi la funzionalità di quel locale, che cosa deve fare e che cosa deve servire. E quindi a volte si vedono così, più delle installazioni artistiche che design, inteso appunto con ergonomia, funzionalità, oltre che con il lato estetico. A volte così, si lascia carta bianca ai troppo creativi sì. E poi se ne paga un po' le conseguenze. Secondo me manca quello che è proprio un progetto di food design quando si costruisce un nuovo ristorante. Grazie Davide, grazie a presto. Grazie. Buongiorno. Buongiorno. Sentiamo Veronica da Roma, l'ultima radioascoltatrice, poi non abbiamo più tempo. Veronica, buongiorno, veloce. Buongiorno a tutti. E volevo semplicemente dire, riportare il discorso, diciamo, alla gente comune, non diciamo a questi grandi artisti della pasticceria e della cucina, dicendo che questo tipo di decorazioni ha preso sicuramente piede per una moda, per la televisione, però diciamo è stata almeno a Roma qui hanno aperto molti negozi con forniture, diciamo, di sia di prodotti, quindi di coloranti di vari tipi, che di attrezzature per fare queste decorazioni, e quindi la gente si è sentita, me compresa, capace di realizzare delle torte che magari non si trovavano in commercio, a partire da, diciamo, dall'esigenza dei propri figli, quindi della famiglia, e ha dato questo senso di creatività e di diciamo si è inserito in una nicchia che non era soddisfatta dalle decorazioni normali delle pasticcerie. Secondo me come moda si esaurirà, però sta poi alle pasticcerie, quelle più, diciamo, famose e rinomate, vedere se continuare questo filone. Beh, perché secondo me la gente comunque apprezza la torta buona, però anche una torta particolare sicuramente. Grazie Veronica, grazie Veronica. Bene, io vi do appuntamento ogni giorno con la pillola del gastronauta alle 11.05 e alle 23.05. Vi auguro un buon weekend dolce, magari di fronte a una straordinaria torta, però che sia anche buona.